In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, eccoci qui anche per questo venerdì 25 novembre 2011. Auguri a tutti coloro che si chiamano Caterina, oggi infatti la Chiesa Cattolica ricorda Santa Caterina, ma auguri anche a coloro che oggi compiono qualcosa, un compleanno, una data importante quindi da ricordare, un anniversario. Gli auguri giungono anche ad Andrea Lucchelli, pallavolista, a Mimmo Camporeale, batterista di Vasco Rossi. Iniziamo subito con la musica, lei è Jennifer Lopez e il pezzo che già sentite in sottofondo si intitola Papi. Slalom. Flashback. Guarire poi meraviglioso, ma hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole. Dritta, voi potete comunque, se volete, richiedere la canzone che più preferite allo 0921 92 32 92, oppure mandare un sms al 335 56 37 251. Vi ricordo che a vostra disposizione c'è anche il nostro bel sito internet, curato veramente nelle maniere particolari dal nostro buon Simone Brancato, che vi ricordo stasera proprio l'appuntamento di Rock Revolution con i Rock Brothers Simone e Filippo Brancato, ed è www.crmepiradio.it. All'interno del sito potete direttamente da lì fare la richiesta che desiderate, e potete, fra le altre cose, fare la vostra dedica. Continuiamo ancora con la musica. Salutiamo Antonella che ci ha richiesto questo pezzo di Giorgia. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, non ci sono spiegazioni, e non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Amore, se tutto prende, ma non ti importa se la risposta è tutta qui, tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro Inevitabile, la canzone che abbiamo sentito quest'oggi, richiesta dalla nostra cara amica Antonella e incantata in coppia di Giorgia con Eros Ramazzotti. In questa giornata, tanti anni fa, precisamente nel 2004, Carlo Azeglio Ciampi, presidente allora della Repubblica Italiana, concedeva la grazia al bandito sardo Graziano Messina. Non è stato certo facile tornare qui da te. Avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se, se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me, o forse non ero a corrente che il tempo a quel tempo correva anche per lui. Non ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi veniva a salvare. Accorgevi di me se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare, proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me, e come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te nelle tue mani, si senti, avrò cura di te. Il 25 novembre del 1990 in Polonia si tengono le prime elezioni presidenziali popolari. La maggioranza di voti viene raccolta dal leader di Solidarność, Lech Wałęsa. Nell'85 si spegne a Roma la scrittrice Ela Morante, autrice di L'isola di Arturo e Il Mezzogno e il Sortileggio. Era stata sposata con lo scrittore Alberto Moravia. Quindi abbiamo scontito Celentano, adesso ancora musica italiana, firmata questa volta Stadio. La canzone è quella bella di questo periodo, si intitola Gaetano e Giacinto. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Ho un buco nelle tasche dei pantaloni, forse avrò perso qualcosa di me. Al bar tante chiacchiere malinconie,

I Fugees sono un trio hip hop statunitense che hanno portato nelle maggiori parti delle classifiche di tutto il mondo questo genere musicale, facendolo conoscere in ogni fascia di ascoltatore. A loro va il merito comunque di averlo incanalato in un'altra dimensione diversa dei temi della violenza e della filosofia gangstana. Nel 96 loro, quindi i Fugees, rifacendosi alla canzone Killing Me Softly with a Song di Robert Flack, producono questo disco Killing Me Softly. Il disco, pensate un po', giunge a 4 milioni di copie e loro conducono un memorabile live show di 80.000 persone in Gran Bretagna nell'aprile del 97. Le entrate dello show sono destinate in beneficenza. Adesso vi diamo le notizie che arrivano da qualsiasi parte del mondo e poi ripartiremo in studio con un'altra canzone datata. Slalom Flashback. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Come già anticipatovi questa mattina, la giornata è ricca e piena di ospiti. Ed è arrivato già il primo nostro ospite puntuale più che mai ogni venerdì per presentarci e descriverci quelle che possono essere le opportunità per trascorrere un buon e sereno fine settimana. È con noi telefonicamente Giulio Giallombardo. Buongiorno Giulio. Buongiorno, buongiorno Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori. Come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Sì, sì, ringraziando il cielo, sì. Allora, okay. Dove ci porterai quest'oggi? Ma questa settimana cominciamo, come spesso facciamo, con la cultura e abbiamo una bella mostra ospitata nelle sale del Castello Ursino di Catania, sede del Museo Civico. Il titolo della mostra è Pezze di Storia. Perché? Perché sono esposti oggetti raffinatissimi, di raffinata fattura, provenienti dalle stanze delle meraviglie che gli aristocratici mostravano a ospiti particolari, a quelli più eccellenti. Nella fattispecie potrete ammirare le collezioni tessili dei principi bischeri e dei padri benedettini, fra cui una chicca, un particolare prezioso frammento del mantello di Enrico VI, il padre di Federico II di Svevia. Questo a Catania, Castello Ursino. Ancora per pochi giorni la mostra è aperta, quindi se non l'avete vista è una buona occasione, tra l'altro, anche di visitare Catania, che è sempre una città che merita di essere vista. Sì, questo sì, fuori di dubbio. Cambiando argomento e luogo, ci spostiamo a Marsala, dove questa domenica è prevista la nostra nuova passeggiata con partenza da Palermo in collaborazione con l'agenzia di viaggi Borzì, e vi porteremo questa volta alla scoperta delle storiche cantine dei Florio, a gustare l'ottimo Marsala, uno fra i vini più pregiati dell'isola, come sappiamo, e poi ovviamente a fare due passi tra le bellezze monumentali della città. Buono. In più, una particolarità questa settimana potrete leggere sul nostro settimanale Sicilia Weekend, sul sito www.siciliaweekend.info, una intervista allo scrittore Henry De Luca, che ci parla dei suoi ricordi della Sicilia quando lavorò per un anno come operaio nella base militare di Sigonella a Catania, e ci racconta tra l'altro una bella storia legata a un piatto dell'isola, la pasta alla norma. Sì. Ne approfitto infine per ricordare a tutti il nostro concorso. Ecco. Fotografico, sì, Siciliamatic, quindi se amate Iptamatic, che come sapete è ormai la nota applicazione per iPhone che scatta le foto come le vecchie macchine fotografiche, potete inviarci le vostre fotografie, noi le selezioneremo per una bella mostra che allestiremo a gennaio al Media Store Feltrinelli di Palermo. Sul sito ovviamente troverete la scheda di adesione, il regolamento e quant'altro. Ho capito. Allora, io, guarda, l'altro giorno guardavo il tuo sito, il vostro sito, sì, e mi accorgevo che sta crescendo sempre più di informazioni, di notizie utili, quindi veramente per far sì che noi scopriamo ancora di più la nostra Sicilia. Sì, come detto altre volte, il nostro sito è la finestra per far conoscere la rivista, che è una rivista scaricabile in formato, sì, PDF, che ogni settimana aggiorniamo. Però noi stiamo cercando di arricchire, appunto, come giustamente tu, anche il sito di informazioni varie, di sezioni nuove, insomma, per poter alimentare in qualche maniera la rivista stessa, ecco. Perfetto. Giulio, io ti ringrazio, ti rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo e ti auguro, benissimo, sia a te che ai nostri radioascoltatori, un buon fine settimana. Grazie, grazie Francesco, buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori, come sempre. Ciao, ciao Giulio. Slalom. Flashback. siamo sempre come ogni venerdì, come ogni lunedì e come ogni mercoledì, quando ci si incontra radiofonicamente all'interno di Slalom con queste canzoni che sono delle perle degli anni trascorsi. Prima avevamo sentito Alison Morissette con i Ironic e adesso Annie Lennox che ci ha deliziato con questo successo del 90, scusate, del 96 con il titolo Why. Lei è una cantante abbastanza famosa, è un po' non accetta molto le interviste, infatti in un festival di Sanremo durante la quale si era proprio esibita ha cantato la versione live Why proprio cercando di evitare le interviste perché non ama queste. Noi quest'oggi le abbiamo rispolverato e continuando sempre ad ascoltarle avete l'opportunità di seguire anche altre canzoni che noi abbiamo veramente scoperto all'interno della nostra ampia discografia che troviamo qui in radio. Consigli? No, niente, adesso continuiamo ancora con la musica. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Siamo rientrati in studio con questa bella canzone di Raff che si intitola Senza Cielo. Salutiamo Alessia e Valeria che ci ascoltano da Palermo in streaming. Voli di aerei lontani che guardano il mondo dal cielo lassù. Per questa voglia di perdersi e non ritrovarsi l'hai fatto anche tu. Sui nostri oceani di pianto, sul mio disincanto non tornerò più. Senza cielo, senza una meta, ma volo da solo nel mio pensiero. Tutto quel che resta è niente senza te, senza cielo e senza ali. Io volo, volo anche se nel mio cielo quello che resta non è come quello che resta. Su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. trovo qui su questo palcoscenico di nuovo io. Mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso di amare te. Non ho mai tolto un pensiero a te. Non ho mai smesso. Ho cercato la bellezza e l'ho trovata in fondo alla semplicità. Ho cercato il mio passato perché mi hanno detto che così si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. Chiesto torna mentre ero già qui. Tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora boreale, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato mai. Sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Del mondo, mentre io mi nascondo, è che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, di noi. Ma io lo so che tornerai, l'universo si muove, non smetterà mai. E brucerò per te, mi ferirò per te. Io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza, e vola, sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura, e vai. Corrode, che ti consuma, e vola. Io lo so che lo sai fare, e niente ci potrà fermare più. Per te, io brucerò. Per te io brucerò, per te. Così ci cantano i Negrita anche questa mattina del 25 novembre 2011. Prima si diceva che l'Italia è divisa in due per il tempo. Adesso è la Sicilia a dividersi in due. Nella parte occidentale c'è un bel tempo, anche piuttosto caldo come temperatura. Nella parte orientale, ahimè, i danni si contano veramente con grande intensità. Auguri anche a tutti coloro che da quelle parti ci ascoltano e che in questo momento stanno attraversando un momento difficile. Noi tutti di Happy Radio, di CRM Happy Radio, siamo vicini a voi. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. If it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. So don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. If your life was back to you, ooh, just think what tomorrow will do. So don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be better than before, 'cause yesterday's gone, yesterday's gone. About Slalom. Flashback. Vieni di puro amore a ridarmi la vita altissimo. Quasi mai, ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Quasi mai, mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi. Mai per amore mi lascerò per te morire. Mai per amore guardami, cerco la luce di noi. Quasi mai, io ti cerco nelle notti e chiedo ai sogni dove sei. Quasi mai, in questa storia andata male io ti ho detto addio. Come mai? Sai che quasi mai il vero amore può dividerci. Vieni di puro amore a illuminarmi la vita. Altissimo amore, non è ancora finita. Quasi mai, mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi. Che scorpacciata di musica che facciamo! Veramente, questa mattina abbiamo anche sentito Gianna Nannini con questa bella canzone intitolata Mai per amore, dedicata a tutti coloro che in questa giornata stanno trascorrendo dei momenti felici. Black Friday è una novità che arriva dagli Stati Uniti d'America ed è sicuramente fra poco sarà anche da noi copiazzata, perché noi amiamo copiazzare un po' gli americani. Che cosa fanno? È praticamente gli esercizi commerciali che mettono tutto scontato all'ultimo grido, e quindi praticamente la gente già di buon mattino si ritrova a fare le file per accaparrarsi il capo che gli piace. Ancora musica di casa nostra. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu. Ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco in vano no. Simona Molinari e Peter Cincotta l'hanno rispolverata e ne hanno fatto un successone veramente all'ultimo grido. Questa mattina l'abbiamo rispolverata anche noi, l'abbiamo voluta inserire nella scaletta musicale di Slalom, nella trasmissione che potete seguire ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13 in replica a partire dalle 2 di notte. Allora, quindi buon ascolto anche ai nottamboli. E va sempre così, sempre così, che parli ma nessuno ascolta, e va sempre così. Notizie curiose, idee e tanta musica. piangerò mai sul denaro che spendo e ne riavrò certo di più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho e forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol di più, molto di più. Accendilo tu questo sole che spegne, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, che sarà di me se perdo anche te. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, che sarà di me se perdo anche te, che sarà di me, che sarà di me, che sarà di me se perdo anche te. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Born on Blonde è un gruppo rock statunitense attivo dal 1989 al 95, data che poi il gruppo si è sciolto, quando praticamente i cantanti hanno deciso di iniziare una carriera da solista, causando quindi l'abbandono di tutti gli altri membri. E la canzone che abbiamo sentito è What's Up, che è il loro primo e unico singolo ad essere entrato nelle classifiche del 1993. Adesso consigli commerciali, poi ci riparteremo, come poi riparteremo, sentiremo e faremo veramente di voi oggi una giornata speciale con la musica targata CR. Slalom Flashback. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Lanatou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue è una canzone dalla cantautrice americana Madonna. È il primo singolo estratto dall'album I'm Breathless ed è scritta e prodotta da Madonna e Stamp Pettibone. Il singolo, che è stato lanciato nell'aprile del 1990, vende quasi 6 milioni di copie. Con Vogue, Madonna porta in auge un ballo che diventa un vero e proprio fenomeno di costume, il voguing. Questo ballo era allora molto diffuso nei locali gay degli Stati Uniti, consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine americano Vogue. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Ancora musica, ma prima vi dobbiamo ricordare che questa mattina è partito la manifestazione Cefalù Diadi, che si terrà qui a Cefalù a partire quindi da oggi, da questa mattina delle 9.30, domenica. Ci saranno tante belle cose, sport. E questo pomeriggio dalle 17 alle 19 al campo di calcio Altigianelli di Cefalù ci sarà il torneo di calcio in diretta proprio con Robin Antonio all'interno del programma, proprio On the Road. Se è possibile discuterne con te di quelle storie tenute nascoste, perché troppo infime per te. Come già detto prima, quindi da quest'oggi sono partite le Cefalù Diadi, una manifestazione che parte oggi e si concluderà domenica. Questa mattina sono stati ospiti al liceo artistico dove si è parlato di sicurezza sulle strade. Nel pomeriggio, quindi di oggi, alle 16 presso il campo sportivo Artigianelli sarà la volta del trofeo di calcio Scicolone organizzato dalla Real Cefalù. E noi saremo lì, noi di CRM, infatti in diretta all'interno del programma On The Road di Roby D'Antoni ci sarà praticamente la diretta. Quindi vi aspettiamo numerosi più che mai sia all'interno del programma ma sia soprattutto per seguire questa manifestazione abbastanza importante. Slalom Flashback. Thank you. The Verve, anche se originariamente si chiamavano Verve semplicemente, era un gruppo musicale alternativo rock britannico formatosi a Wigan in Inghilterra, attivi in più riprese a partire dal 90 quando si formarono i Wigan. I Verve raggiunsero l'apice della fama con il terzo album Urban Hymns, che nel 97 da quest'album hanno tirato fuori Bittersweet Symphony, che questa mattina abbiamo sentito e che divenne una hit mondiale. Nell'aprile del 99 la band si è sciolta a causa di dissidi interni e all'epoca era uno dei gruppi musicali più noti e influenti nel panorama della musica dell'alternativa rock inglese. Si sono ricostituiti nel 2007 e hanno pubblicato che nell'agosto del 2008 l'album forte, prima di sciogliersi nuovamente nel 2009. Ma parlando di rock, non possiamo non parlare dei nostri Rock Brothers, Simone e Filippo Brancato, che questa sera saranno alla Corte delle Stelle per la serata rock dalle 22 in poi, in diretta sempre su CRM Happy Radio. Vi ricordo le dritte per potervi mettere in contatto con noi, che sono www.crmhappyradio.it. da lì potete scrivere i vostri messaggi, come state facendo, fare le vostre richieste, oppure tramite il nostro cellulare, che è il 335 56 37 251. Ma avete anche a disposizione, pensate un po', anche il nostro numero di rete fissa, che è lo 0921 92 32 92. Vi ricordo che all'interno del sito potete dialogare, potete parlare, potete scrivere, potete fare quello che volete praticamente tramite la nostra pagina Facebook, e da lì interagire direttamente con noi. Salutiamo comunque coloro che ci seguono in streaming, che ci seguono durante la mattina, ma che ci seguono soprattutto durante la notte, perché i nostri programmi sono ritrasmessi, quindi registrati e ritrasmessi a partire dalle 2 in poi. E salutiamo Roby D'Antonio, Mary Catalano, le due simpaticissime ragazze che ogni pomeriggio vi tengono compagnia. E come adesso, i Goldplay. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Coldplay, che stamattina abbiamo sentito con questa bella canzone che si intitola Paradise. L'abbiamo visti anche ospiti del nostro ben caro amico Fiorello, che puntualmente viene trasmesso anche lunedì pomeriggio. Questa volta è stato leggermente più in calo rispetto alla prima puntata da parte mia. Continuiamo. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Ora parleremo di Marco Lanzetta, che per intenderci è il dottore che ha partecipato al trapianto della Mario, il primo nella storia della medicina. Base sono un gruppo musicale svedese che questa mattina abbiamo rispolverato. Noi facciamo proprio le donne di casa, facciamo le pulizie in casa e lo facciamo ben volentieri. Adesso, come già detto, dovevamo parlare di Marco Lanzetta, questo noto chirurgo che ha subito veramente un'ingiustizia planetaria, cioè è veramente paradossale. Dopo i consigli commerciali ne parleremo, perché veramente si rasenta l'inverosimile. Consigli quindi commerciali e poi a rientro da studio parleremo proprio del dottor Slalom. Flashback. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. didn't come home. Left you lying in a bed alone. Flying high in the sky, we needed my shoulder. Like a stone hanging around my neck, say. Heard it looking for a break, my back, say. I gotta say what I feel for. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Once upon a time, people were living so peacefully, living on the smile and sharing what was all around. One day came a time where money could even buy your soul. Yes, one day came a time, yeah. The evil of all, these are my worries. So long as I am here, but I'll never worry. So long as you are near. Sharing what was all around. One day came a time where money could even buy your heart. Yes, one day came a time. The evil of all, these are my worries. So long as I am here, ah, but I'll never worry. So long as quindi, come stavamo dicendo, del dottor Marco Lanzetti, che per intenderci quello che ha partecipato nel 98 al primo trapianto di mano, è stato, in parole povere, ha partecipato, diciamo, a un concorso per una cattedra all'Università di Varese. Ha fatto, dico, lui non aveva di bisogno di grande presentazione perché lo conoscevano tutti e così via, però pensate, è stato non ammesso perché dichiarato non idoneo al tipo di concorso, ma soprattutto al tipo di incarico che lui doveva poi successivamente ricoprire. Le cose della vita strana. Alan Black, che ci ha cantato stamattina I Need a Dollar. Il fidanzato di Belen, il Fabrizio Corona, ha confermato la triste notizia ieri negli studi della Vita in Diretta, dove, ahimè, non ha voluto fornire alcun dettaglio e ha chiesto che sulla vicenda scendesse il silenzio. Infatti la notizia che era già stata trapelata da altre informazioni è che c'è stato un aborto spontaneo. Share the più l'ascolto e più questa canzone mi va sempre più piacendo, questa di Amy Winehouse, Where They Will Come, che questa mattina abbiamo riascoltato. Continuiamo con la musica. C'è questa simpatica notizia, un po' più allegra di quella che abbiamo detto prima. Mario Ballotelli e Raffaella Fico fanno pace con tanti tanti baci. Infatti la ragazza ha detto che non ha creduto ai tabloid britannici. Vi ricordo i due appuntamenti di oggi, il pomeriggio in diretta il torneo di calcio con all'interno del programma di Robin Antonio on the road dalle 17 alle 19, infatti al campo sportivo Artigianella ci sarà questo torneo di calcio, e questa sera in diretta dalla Corte delle Stelle per serata rock dalle 22 in poi i Rock Brothers con il programma Rock Revolution, quindi i fratelli Simone e Filippo Brancato vi terranno compagnia. Noi adesso vi diamo dei buoni consigli commerciali, poi ripartiremo con la musica targata CRM. Slalom. Flashback. Ad avuto veramente una grande fantasia questi giovani che hanno fondato questo gruppo tanti anni fa, e che praticamente corrisponde alla traduzione esatta degli UFO. Infatti nella seconda guerra mondiale quegli strani avvistamenti aerei riferiti proprio da alcuni piloti alleati proprio per indicare generalmente gli UFO. Questo è un gruppo post-grunge fondato nel 1994. Noi abbiamo sentito questa mattina una delle canzoni più in auge di questa band. Allora, come ogni venerdì abbiamo il nostro bel appuntamento con la liturgia della domenica e abbiamo ospite telefonico il nostro buon padre Angiolino Dilizia. Buongiorno padre. Buongiorno a voi. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. La settimana scorsa hai avuto un impegno e quindi non sei stato presente radiofonicamente, però quest'oggi ci riprendiamo un po' quello che non abbiamo detto la volta scorsa. Ma io volevo chiederti una cosa. Domenica inizia l'Avvento, ma vogliamo spiegare cos'è l'Avvento? Innanzitutto entriamo con l'Avvento nel tempo della speranza, perché Avvento vuol dire letteralmente avvicinarsi, uh-huh, e venire vicino. C'è un tempo in cui tutto si fa più vicino: Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso, in cui impariamo che cosa sia davvero urgente. Uh-huh. Bisogna in poche parole abbreviare le distanze con chi ci sta accanto e soprattutto con Dio. Questo vuol dire Avvento. Ho capito. Quindi la liturgia della parola di domenica un po' spiega già di per sé stesso cos'è l'Avvento. Esatto. Cioè, in pratica dice che l'Avvento propone due atteggiamenti iniziali, cioè fare attenzione e vegliate. Perché sono i due momenti della vita. Esatto, dice così il Vangelo: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito lontano, lasciando la propria casa e dato il potere ai suoi servi. Uh-huh. Innanzitutto c'è da considerare che questo è un atto di fiducia grande da parte di Dio. È un'assunzione di una responsabilità enorme da parte dell'uomo, cioè come custodire i beni che Dio ci ha dato, la natura, il mondo, ogni vivente. Bisogna essere un po' responsabili di questo dono che Dio ci fa. Certo. Ma il primo aspetto di questo Vangelo parla di attenzione. Tutti conosciamo che cosa comporta una vita distratta. Fare una cosa e pensarne un'altra. Certo. Magari quando si guida ed è pericoloso, uno sta guidando, ma se ha dei problemi pensa ad altro e non si accorge magari del pericolo che sta andando incontro, che sta facendo, mm-hmm, che sta causando. In pratica, quando uno parla con una persona, lo ascolta con le orecchie, ma il suo pensiero è altrove. C'è poca attenzione, non soltanto con la nostra le nostre orecchie, i nostri occhi, ma anche con il cuore e con l'intelligenza. Deve essere un pochettino presente, certo, non essere distratto. Quindi il discorso che la liturgia dice: fate attenzione, vegliate, proprio perché dobbiamo aprire i nostri cuori. Esatto. Bene. In pratica il Vangelo poi parla anche di vegliate, che è il secondo verbo. Vegliare vuol dire essere attenti. La certo. Sentinella non, mm-hmm, guarda i suoi piedi, guarda lontano, guarda se il pericolo viene da lontano, è da lì che dà l'allarme. È come uno che sta nella notte, aspetta l'alba, ma l'alba deve ancora venire, cioè il suo sguardo è sempre rivolto verso il futuro, verso ciò che deve arrivare, non quello che sta vivendo. E quindi è un vegliare proteso verso un futuro che non è qui, deve ancora arrivare. Ok. Vegliate su tutto ciò, dice il Vangelo, dice Gesù, su tutto ciò che nasce. Mm-hmm. Sì, la parte proprio finale. Quello che dico a voi, io lo dico a tutti. Vegliate. Esatto. Esatto, essere attenti che la pace possa crescere come un germoglio, che anche la pace che c'è in famiglia, in noi stessi, nel mondo, possiamo fare poco, ma quel poco serve a non spegnere quel bene che c'è attorno a noi. E quindi un vegliare che il bene possa crescere sempre di più, che la pace possa crescere sempre di più, che l'unità possa crescere sempre di più. E questo è un desiderio che il Signore ci ripete ogni anno, perché il nostro cuore sia non addormentato, ma attento, non distratto, ma guardando a un futuro che ci aspetta tutti. Noi spesso il futuro non lo guardiamo, ci accontentiamo del presente, di quello che vediamo sotto il naso, ma questo ci toglie la speranza. La speranza ci viene guardando al futuro, come uno che sta nel buio, nella notte, aspetta con ansia l'alba, perché nell'alba c'è la luce, c'è la vita. Così deve essere per noi. Quindi avvento, un tempo di attenzione. Perfetto, con questo annuncio, ma soprattutto con questo invito ad aprire il nostro cuore e a dire siamo più buoni, siamo più attenti, pensiamo sempre nella maniera positiva, noi ti salutiamo Padre Angiolino e ti ringraziamo della tua partecipazione all'interno di questo programma. Okay. È una parte importante per noi tutti. Grazie, buona e buona giornata. Ciao. Quello che comunemente noi chiamiamo amore forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tutti hanno sempre scritto senza veramente mai sapere come fosse fatto. Anche perché guardo fuori e fuori non ce n'è, un milione di persone però lui non c'è, universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitaria. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fine fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. È qualche parola di una poesia o di una canzone, forse è solo un meccanismo che ci scatta dentro, che però chiamiamo sentimento, come quando ti ho sentito avvicinarti a me, come quando ti ho sentito avvicinarti a me, ed il cuore forte ha cominciato a battere, ed il cuore forte ha cominciato a battere, come la risata contagiosa di un bambino, come quando tutto sembra un po' più semplice. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. E se fosse l'unico motivo che c'è, we can all see the truth, but there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Yes, I'll be your man, you better understand, and I promise that my love you can't forget, cause hey, this is my time, l'unico motivo che c'è, il significato ultimo per cui vivere, fino in fondo il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo a... Slalom Flashback. Che loro hanno dato, infatti la band attualmente è in una pausa per riprendersi dalla stressante ciclo registrazione disco tour promozione. In un messaggio effetti è apparso sul loro sito ufficiale il 23 settembre del 2005 e dichiarano di non essere sciolti, di non essersi sciolti, ma solo di voler passare più tempo con le proprie famiglie. I Think I'm Paranoid è il secondo singolo estratto dall'album del 98 che stamattina abbiamo sentito. Parlando di rock, non dobbiamo dimenticare l'appuntamento di questa sera dalle 22 in poi con Rock Revolution con Simone Filippo Brancato, che sarà in diretta dalla Corte delle Stelle. Continuiamo con la musica e accontentiamo una nostra amica che ci ascolta da Castelbuono, che ha richiesto una canzone qualsiasi di Giorgia. Noi abbiamo estratto dall'ultima fatica Il mio giorno migliore. Ciao Lucia e buon ascolto. Vengo a prenderti quando basta. Elisabetta Canalis ne manda giù di rospi leggendo quello che scrivono i blog, quello che scrivono i siti, parlando proprio delle ultime avventure avute con il suo nuovo fidanzato. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ti è toccato partire bambina con una piccola valigia di cartone che hai cominciato a riempire due foglie di quella radura che non c'era già più, rossetti finti ad un astuccio di gemme, e la valigia ha cominciato a pesare, dovevi ancora partire, e gli occhi han preso il colore del cielo, a furia di guardarlo, e con quegli occhi ciò che vedevi, nessuno può saperlo. E sole, pioggia, neve, tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ad ogni sosta c'era sempre qualcuno e quasi sempre tu hai provato a parlare. Non sentiva nessuno e ti sei data, ti sei presa qualche cosa, chissà, ma le parole che ti sono avanzate sono finite tutte nella valigia e lì ci sono restate e le tue gambe andavano sempre, sono sempre più adagio. E le tue braccia reggevano a stento il pe- peso della valigia e sole, pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve e tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto e braccia per tenere e fianchi per ballare. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle un po' più dure a morire e sole, pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve e tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto e braccia per tenere e fianco. È un periodo davvero nero per l'ex re dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona. Infatti è stato minacciato da un suo ex collaboratore per un mancato pagamento. Ma lui, che è siciliano, ha delle origini siciliane, dovrebbe ricordare il vecchio detto che c'è: chi avanza, chi deve ricevere soldi, ha ragione. Quindi se lo minacciano, insomma, un motivo ci deve essere. Anche se non siamo per la linea violenta, preferiamo essere magari preferiamo la via del dialogo. Continuiamo con la musica italiana. Vi ricordo che questa è la vostra radio preferita, CRM Happy Radio, e lei è Mina. Canto per te questa canzone per tormentarti ancora un po', tornare lì per un momento con te che non puoi dire no. Canto per te questa canzone e so già quello che farai. Adesso fingerai di niente, ma dentro invece tremerai. No, non ti tradire con la gente, continua a fare quel che fai, non ti fermare, mio solo amore, tutto resta tra di noi. È molto bella questa canzone di Mina. La necessità, si sa, anguizza d'ingegno. Capita nei primi anni 90 pure al titolare in un'azienda vinicola, Mario Moletti, che per risolvere il problema del suo surriscaldamento dei piedi fora praticamente delle scarpe, delle suole. Nel 95 va oltre praticamente perché si crea una suola di gomma dotata di una membrana microporosa che assorbe ed espelle il sudore. Nasce quindi la scarpa. Slalom. Flashback. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Thank you. si chiama Sine Maria Bernadette O'Connor. È nata a Dublino l'8 dicembre del 66 ed è stata una delle voci più affascinanti negli anni 80 e 90. È un'artista dalla spiccata personalità che deve la sua fama sia alla musica ma anche al suo essere anticonformista. È noto il suo look fuori dal comune, ha spesso i capelli rasati a zero e le sue opinioni controverse. Però già a 14 anni lei crea un gruppo irlandese e così via. Viene da una famiglia numerosa e noi l'abbiamo questa mattina riascoltata. Continuiamo con la musica e vi ricordiamo che questa è CRM Happy Radio, la vostra radio che potete sentire sia in modulazione di frequenza oppure lo potete sentire in streaming tramite il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it. Saluto tutti i nottamboli che ascoltano questo programma a partire dalle 2 di notte. È bella questa frase che dice: in ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà. E questo è sicuramente un punto importante per noi tutti che facciamo un lavoro che ci piace e che soprattutto ci toglie quella difficoltà della quotidianità. Abbiamo in linea il nostro caro amico Alessandro, che sicuramente di passione ne avrà tanta. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti. Come stai? Tutto a posto, tutto benissimo. E quindi è giusto, la passione toglie gran parte delle difficoltà. Decisamente sì. È vero. Il mio lavoro è un lavoro che lo si fa con passione, sennò diventa uno stress continuo. Quindi di conseguenza devi essere sempre abbastanza pieno di passione per portarlo avanti. Ok, ma parlando di passione, oggi cosa ci proponi? Beh, oggi vi faccio appassionare un momentino con qualcosa che nelle nostre tavole si sta un momentino perdendo. Ed è quello che comunque le nostre nonne, le nostre mamme, insomma, ci preparavano una volta, a differenza di queste merendine pronte che troviamo già sul mercato. Quindi un normalissimo pan di Spagna. Vi darò due varietà, in maniera tale che si potrà provare sia in un modo che nell'altro, e le nostre amiche che ci seguono da casa sicuramente troveranno un pretesto per preparare con moltissima dimestichezza, ma soprattutto con semplicità, una merendina sana e nutriente per i bambini. Perfetto. Ma anche per i più grandi, perché certo, decisamente è così. Non dobbiamo essere mai a parte. Andremo praticamente a preparare 6 uova intere, le metteremo all'interno di un contenitore, o se in casa c'è un robottino da cucina che praticamente serve a montare queste uova. Le uova praticamente si metteranno dentro questo robottino e si faranno montare attraverso una frusta. Questa frusta praticamente farà crescere di volume 2,5 volte il composto che abbiamo precedentemente messo. In seguito alle 6 uova metteremo 200 g di zucchero semolato. Una volta unito avremo un attimino la sensazione di uno zabaglione. Questo praticamente, una volta montato, sarà un composto abbastanza spumeggiante, verrà unito a 200 g di farina. Praticamente la dobbiamo precedentemente setacciare in maniera tale che nel composto non vengano a presentarsi dei grumi. Andremo ad unire, ma molto delicatamente, perché più energicamente si unisce la farina, più corriamo il rischio di fare abbassare nuovamente il volume delle uova che abbiamo montato in precedenza. Praticamente poi metteremo una scorzetta di limone e di arancia finemente grattugiata e un pizzico di vaniglia se ce l'abbiamo, ma se non c'è non succede niente, perché già il limone e l'arancia danno un aroma abbastanza gradevole. Andremo a preparare uno stampo che fodereremo o con della carta da forno in maniera tale che il rischio di attaccarsi non si venga a presentare, o addirittura possiamo imburrare uno stampo e passarlo di farina. In seguito metteremo il composto all'interno e metteremo in forno all'incirca per 20 minuti alla temperatura di 180 gradi. A 180 gradi lo tireremo fuori e lo lasceremo asciugare nello stampo stesso. Praticamente lo tireremo fuori e possiamo servirlo così per com'è, con una spolverata di zucchero a velo sopra, o mettere dentro tutto quello che ci pare. Lo potremo preparare con della marmellata, lo potremo mettere insieme a della Nutella, potremmo fare una crema pasticcera che magari in un secondo tempo vi darò anche la dose, e servire così per com'è. Quindi andremo a riscoprire uno dei gusti che un attimino si sta perdendo, e per un attimo metteremo da parte quelle che sono le merendine, insomma, che troviamo sul mercato, buone per carità, però insomma non possono mai eguagliare un gusto così semplice e genuino come quello di qualcosa che è preparato così fatto da noi. Soprattutto. Chiaramente una variante a questo: anziché mettere i 200 grammi di farina, come dicevo prima, con le stesse dosi e con le stesse quantità andremo a fare 120 grammi di farina e 80 grammi di cacao. Questo praticamente per andare a fare un pan di Spagna al cioccolato. Tutto qua. A quest'ora veramente hai stuzzicato non la merendina ma l'appetito a tutti gli effetti. Eh beh, sicuramente, però sai, gli diamo un po' più tempo per preparare qualcosa con maggiore disponibilità di tempo, ecco. Ok, senti, il nostro appuntamento è sempre rinnovato a lunedì, sempre più o meno a questo orario. Va benissimo. Io ho scritto anche all'interno del nostro spazio Facebook di scrivere le ricette, perché stiamo preparando questo quiz che avevamo detto sarebbe partito adesso a novembre, invece molto probabilmente partirà nel mese di dicembre. Quindi scrivete sempre tutte le ricette che il nostro caro amico Alessandro Orefici ci dà, perché da lì ci sarà proprio, girerà il quiz. Vi do un numero che difficilmente vi farà dimenticare questa dose, che è io lo chiamo pan di Spagna 226. Significa 2, che sarebbero i 200 grammi di zucchero, il 2, che sono ancora 200 grammi di farina, 6 le uova. Ah, perfetto. Facilissimo. È vero. Allora, ti auguro buona giornata, buona vita, ci sentiamo lunedì. Grazie, un bacione a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Ciao. Ciao. E siamo arrivati al termine anche per quest'oggi e lo facciamo con questa bella canzone. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre su questa radio, su questa frequenza. Vi auguro un buon fine settimana e quindi, se il buon Dio lo vorrà, noi ci sentiamo lunedì dalle 9.30 in poi fino alle 13. Da Francesco Puglisi è tutto, vi auguro buona vita, sempre su CRM. Vi ricordo l'appuntamento di Rock Revolution per questa sera dalle 22 in poi.